Il cielo macina grandine fin dove passi tu, specchi mi riflettono con la faccia in giù, l'albero disegna ombre che poi non ritrovo più. Semplicemente non mi rendo conto, io la vivo semplice, semplicemente sono io. Sulle mie scarpe perde il senso di gravità. Sono tornato per ritornare, sono ritmo, musicalità e gioco di scatto. Con quell'incedere disarmante di chi non ha bisogno di niente, di chi si è reso conto per un istante di essere altro da sé. Io la vedo semplice, semplicemente non mi rendo conto. Io la vivo semplice, semplicemente sono io. Io la vedo semplice, semplicemente non mi rendo conto. Io la vivo semplice, semplicemente sono io.